Settima unità. In viaggio. Dialogo. Alla stazione. Dica. Un biglietto di seconda classe per Napoli. Di andata e ritorno? No, di sola andata. Parte oggi, signorina? Sì, col rapido delle 11:05. Ha già il supplemento rapido? No, non ce l'ho. Lo sa che a Roma deve cambiare? Sì. Speriamo di non perdere la coincidenza. Ma no, c'è quasi un'ora di tempo fra un treno e l'altro. 21.900 lire il biglietto, più 3.900 lire per il supplemento rapido. Fanno in tutto 25.800 lire. Ecco qui. Scusi, mi sa dire da quale binario parte? Dal binario 8. E a che ora arriva a Napoli? Un attimo che guardo. Ecco, arriva alle 17:40. Senta, mi scusi, si può salire sul rapido anche senza il biglietto? Perché? Beh, parto con un'amica che viene sempre all'ultimo minuto e... Capisco, e si può fare il biglietto sul treno, ma è più caro. Ah, ma se... Ma che bella conversazione, quando finisce? Signorina, basta con le domande, sennò qui non si parte più. Scusate, grazie tante. Proviamoci insieme. Esercizio 3. Ascoltate e ripetete. Dica. Un biglietto di seconda classe per Napoli. Di andata e ritorno? No, di sola andata. Parte oggi, signorina? Sì, col rapido delle 11:05. Ha già il supplemento rapido? No, non ce l'ho. Lo sa che a Roma deve cambiare? Sì, speriamo di non perdere la coincidenza. Ma no, c'è quasi un'ora di tempo fra un treno e l'altro. 21.900 lire il biglietto, più 3.900 lire per il supplemento rapido. Fanno in tutto 25.800 lire. Ecco qui. Scusi, mi sa dire da quale binario parte? Dal binario 8. E a che ora arriva a Napoli? Un attimo che guardo. Ecco, arriva alle 17:40. Senta, mi scusi, si può salire sul rapido anche senza il biglietto? Perché? Beh, parto con un'amica che viene sempre all'ultimo minuto e... Capisco, si può fare il biglietto sul treno, ma è più caro. Ah, ma sì. Ma che bella conversazione! Quando finisce? Signorina, basta con le domande, sennò qui non si parte più. Scusate, grazie tante. Vocaboli, pagina 177. 8:15, 13:20, 3:45, 6, 7:30, 23:30. Vocaboli, pagina 179. Cuccetta, biglietto, 24 ore, supplemento rapido, prenotazione. Vocaboli, pagina 181. Partire per Milano, partire da Roma, partire in treno, partire con il treno delle 12. Andare da Roma a Milano. Partire con Marco. Settima unità. Ascolta e rispondi. Esercizio 19. In treno. Scusi, è libero quel posto? Sì, prego. Si accomodi, signorina. Vorrei aprire il finestrino per salutare gli amici. Posso? Certo, faccia pure. Oh, meno male. Stiamo partendo. Sì, siamo un po' in ritardo. Va a Roma anche lei? No, vado a Napoli. Ah, Napoli. C'è un proverbio famoso su Napoli. Lei lo conosce? No, Non lo conosco. Il proverbio dice: vedi Napoli e poi muori. Davvero? Napoli è così bella. Sono impaziente di arrivare. Esercizio 20. Avviso ai signori viaggiatori. Il diretto 482 proveniente da Pisa arriva al binario 13 anziché al binario 10. Il rapido 450 per Milano è in arrivo al binario 11. L'espresso proveniente da Firenze viaggia con 25 minuti di ritardo. Facciamo il punto. Comprensione orale, pagina 192. Mi sa dire che treni ci sono per Parigi? Il più comodo è il Palatino, che parte da Roma alle 19.10 e arriva a Parigi la mattina dopo alle 10.07. Per prenderlo devo andare a Roma? No, lo può prendere anche a Pisa o, se preferisce, a Genova o Torino. Mi può dire a che ora parte da Pisa? Alle 22.12. E da Genova? Alle 0.13. Vuole sapere anche quando parte da Torino? No, grazie, non importa.